zamanı. Babilonia di Cosenza, dove stiamo trasmettendo su radiotransizionedifase.org, web radio libera e indipendente, il programma Figli di. Tutti che applaudono, sentiamo proprio le urla di entusiasmo. Finalmente abbiamo con noi Guglielmina, che ci aiuterà in queste speriamo lunghe puntate di Figli di. Ma abbiamo anche Oreste e abbiamo Orestaccio, insomma, sì, Orestaccio non possiamo chiamare Oreste. E poi abbiamo con noi come ospite della serata Ciccio Noto, che sta già applaudendo. E siamo qui. Wow! E siamo qui riuniti intorno a un fuoco, perché fa veramente freddo alle officine di Cosenza in questa giornata. Ma sentiamo ora Guglielmina, che ci vuole dare il suo saluto. Volevo anche salutare io, buonasera. No, non saluto. Vabbè, però tu sei per parlare, io in qualità di quello che presenterà il nostro caro Ciccio Noto. È stato fatto il mio nome? Vero? Io saluto, e quindi saluto e interrompo nel caso. Non so, queste cose, queste trasmissioni teleradiofoniche, non so, faccio quel che mi piace, insomma, accanto a questa schifa. Fuori dalla schifa faccio un po' di meno, molto di meno. Va bene, visto che hai così tanta voglia di parlare, e noi ti abbiamo invitato qui per questo, perché non ci racconti del tuo progetto della casa ecologica? Quale? La disavventura? No, scherzo. No, cosa volete sapere? Volete sapere la casa ecologica. La casa ecologica è un'idea che sta balenando nella mia, nella nostra testolina da, dire, 10 anni, forse poco. Quindi niente, è semplicemente l'idea di vivere un po' più in armonia con l'ambiente. Non stiamo parlando di case sull'albero o quant'altro, quindi, però insomma stiamo parlando di, sicuramente di non vivere in un appartamento e quindi in una casa che consuma tanto, in una casa che anche per essere costruita vengono consumate molte risorse. Quindi questa è un'idea che appunto balena da tanti anni nella testa, e solo da un paio d'anni c'è stata materialmente la possibilità di iniziare questa avventura, quindi quella di iniziare a costruire la casa. Hai vinto l'Enalotto? No, mi sono indebitato con queste grandi care banche. Salutiamo le banche! In minima parte ci siamo indebitati, abbiamo fatto un piccolo mutuo e niente, andremo avanti così. Questioni di giorni che dovrebbero, come dire, darci il malloppo. Però insomma ancora tentennano, e purtroppo la casa è sotto la pioggia. Sì. E comunque con le tue forze già sei arrivato al tetto. Rispetto ad una normale casa, già. Non per parlare subito del volgar denaro, se vuoi ne passiamo a parlare dopo. Parliamo già di denaro? No, dopo. No, vabbè. Sì, formalmente adesso la casa è arrivata, appunto, come dici tu, è arrivata al tetto, anche se il tetto non è completo, perché per poter fare il tetto come ce lo siamo pensato, diciamo che tra l'altro non è una cosa che non è una tipologia di tetto tipo ex novo, oramai le fanno quasi tutte così, semplicemente per una questione di risparmio energetico, e che diciamo la tecnica qui al sud ancora c'ha difficoltà ad arrivare, quindi ancora penso il 95% dei tetti e delle pareti vengono fatte con il metodo tradizionale, cioè cemento armato e macchina. E quindi non è isolato, ovvero sia il 40% del riscaldamento se ne va via dalla testa. Assolutamente sì, questo è il problema. Ad esempio una prova che si può fare una prova visiva che possiamo fare è quando c'è la neve, no? Sui tetti delle nostre case, vedere dove la neve resiste fino a giorni, settimane, quant'altro. Se resiste per giorni e settimane sui tetti, allora quella casa è ben isolata. Se dopo qualche giorno che smette di nevicare, la neve viene subito sciolta, allora capiamo che lì c'è una casa che praticamente c'è un dispendio enorme di energia, quindi squaglia la neve e addio. Alla spagliata della neve. Alla spagliata della neve. Sì, vedono, cioè, le pietre. Pagate il gas che viene dalla Libia, le guerre. Ma ora non c'è più la Libia, la bella di un tempo. Vabbè, sì, sembra amica, amichetti, insomma. amica mia. Ma concretamente, concretamente, in che cosa consiste la casa ecologica? Cioè, in che cosa è differente? Tu hai parlato prima di materiali che tra l'altro sarebbero anche economicizzare, come si dice, perché io parlo italiano correggiuto, ma concretamente il materiale, concretamente, diciamo, il materiale che va per la maggiore nella casa ovviamente è il legno, che è la, è il materiale, insomma, più prossimo alla, più vicino alla natura, diciamo, più alla natura, cioè, è proprio naturale, infatti è naturale. Legno è naturale, sì, no, niente, vabbè, appunto il legno è la, il materiale che va maggiore, appunto. Poi ci sono altre materiali che adesso non mi sovvengono, però che so, cioè, sicuramente il legno, la struttura è il legno, ma il cemento armato, quello bello, il cemento armato, eh sì, quello che necessita per regge? Dovrebbe, dicono. No, in effetti il cemento armato l'ho dovuto usare, però facendo poi una grande, facendo come dire, un grande bilancio di tutta la cosa, ne abbiamo usato davvero molto poco. Però abbiamo dovuto appunto fare le fondazioni in cemento armato, anche perché, vabbè, il terreno è un po' scosceso, conoscenze della tecnica, diciamo, ad oggi a Cosenza e nei dintorni per costruire fondazioni alternative non ce ne sono, e quindi si è dovuti andare avanti. Ma guarda un po', con tutti questi architetti che oggi, no, governano anche la nostra città, eppure ancora Cosenza è rimasta indietro rispetto a questa cosa. Ma dovremmo dirlo a qualcuno, magari qualcuno di letto, no? Che ci guida, insomma, nelle nostre vicende urbane. Vedi, intanto il nostro geometra, perché noi qui abbiamo un geometra, il geometra dell'area che ride, e ora ci sta anche salutando, e ci ha anche offerto, è rimasto dal 4 dicembre scorso, questo fantastico bicchiere di fumante, che è stagionato. Ma a me niente, è un ospite, niente. No, l'ospite è Le bollicine non sono bio, naturale, extra. Andate a farlo, quello. C'è un rimasuglio della bottiglia con un po' di greccio che tanto ci sta. No, noi abbiamo le officine, lo ricordiamo. I cangarieri. Abbiamo i cangarieri, i scingarieri. Ora gli facciamo sentire proprio come... Oh, e con questo brindisi che insomma preannuncia le fantastiche feste natalizie che qui sono molto sentite, insomma, io direi che è il momento di ascoltare anche un po' di musichetta. Vorremmo farvi ascoltare una bella canzoncina, anzi, che abbiamo scelto per voi, che è di un gruppo spagnolo che si chiama Cortatu, e guarda caso si chiama Mierda de Ciudad. È una bella canzoncina e ve la facciamo ascoltare. Oi. E dopo questa bella canzoncina, dopo questi brindisi, intanto fuori sentiamo i botti natalizi che esplodono, mentre brucia la legna nella nostra magica stufa, ritorniamo qui all'Officina Babilonia e vi ricordo che siamo su transizione di fase per la puntata sperimentale di Figli di. E con noi Ciccio Noto, fautore della Casa Ecologica, che ricordo anche un sito di riferimento. www.ecologicasa.info. Quindi chi vuole avere... Spero di ricordarmi tra 30 giorni per stare il dominio, di rinnovarlo. Sì, certo. Ti manderemo una mail per ricordarlo. No, c'è già il provider che ci pensa e ti romperà le palle gli ultimi 15 giorni. Io passo il testimone, diciamo così, alla mia amica Guglielmina, che... E preghiamo il nostro geometra di andare fuori a fare delle telefonate fuori dalle officine, prego. Vabbè, chiediamo nello specifico in che cosa si differenzia la casa ecologica riguardo per esempio l'allaccio del gas. Ad esempio. Cioè, proprio il gas. No, niente, il gas dentro casa verrà utilizzato solo esclusivamente per cucinare, quindi non viene allacciata la... quindi la vecchia è tra virgolette cara bombola del gas, non viene solo utilizzata da me, quindi non mi allaccerò alla Eni, insomma non daremo niente metano, no. Solo bombola. E l'acqua calda? L'acqua calda verrà fatta, diciamo, pannello solare messo sul tetto e quindi con un accumulatore di acqua calda che viene praticamente poi durante la fase, durante l'inverno, che c'è poco sole, quindi non c'è la possibilità di tutta l'acqua calda che serve, verrà supportata, tra virgolette supportata, sì, poi alla fine sostanza è quasi una sostituzione con il termocarbonico all'acqua, che quindi man mano che si accende accumula l'accumulatore, quindi l'accumulatore sta, l'acqua calda può stare anche senza mentre per quanto riguarda l'acqua, comunque si fa sentimento delle tubature personali, quindi i problemi delle tubature quelli che sono essenziali. No, prima di tutto è sempre siamo allacciati sicuramente al mare, però la questione dell'acqua, diciamo, la variante, la versione tecnologica sarà quella di fare l'accumulo dell'acqua piovana, che verrà utilizzata ovviamente per l'orto, il giardino, le pulizie, per le pulizie della casa, quindi verrà installata una doppia, quasi un doppio impianto. Non possiamo, nel senso, si potrebbe utilizzare l'acqua calda per l'acqua piovana per tutto quanto, però questo presuppone praticamente un impianto che viene a costare diverse migliaia di euro e che diciamo in Italia, al sud, con la questione, cioè, il fatto che l'acqua diciamo comunale, no? L'acqua del sindaco costa poco, questi impianti non sono economicamente convenienti, anche perché poi c'è la manutenzione. Quindi invece ad esempio in Germania, dove l'acqua in alcune zone arriva a costare anche 5-6 euro al metro cubo, e allora lì l'inventiva dei crucchi è arrivata anche a pensare al recupero dell'acqua piovana per riutilizzarla in tutta la casa. Dopo la manovra probabilmente cambieranno le condizioni in maniera tale per cui anche da noi arriverà la cosa di riutilizzare l'acqua piovana. Sì, sono state alcune fiere specializzate, ovviamente le ditte tedesche sono cominciate ad arrivare anche in Italia, però si tratta ovviamente di grandi utilizzatori e non magari della piccola casetta che ovviamente può avere un costo esagerato, cioè ha un costo esagerato. E per quanto riguarda la corrente, visto che ci siamo gli allacci, diciamo così, la corrente sì, sicuramente c'è il pannello fotovoltaico, però qual è la questione? Sicuramente siamo anche allacciati alla corrente, siamo anche allacciati alla rete elettrica, saremo allacciati anche alla rete elettrica, perché c'è il fotovoltaico. Sperando che ancora ci sia il conto energia, sennò quindi intercooler. No, vabbè, casomai metteremo stand alone, metteremo batterie, no. Ovviamente ci sarà il fotovoltaico, però sarà dimensionato facendo una media dei consumi della nostra piccola famiglia degli ultimi anni, cioè 2 kilowatt sono più che sufficienti, quindi questo va a influire anche sul costo finale dell'impianto, ecco. Occhio particolare alla questione ai consumi, che è quello che deve, che secondo me, secondo tante persone, deve essere ora, deve essere, perché insomma noi siamo anche filosofi fondamentalmente, quindi ciò che è ciò che non è, queste sono, non mi ricordo quale filosofo, insomma, greco, mi aiuta, il geometra, lo vedo che si agisce. Era Lido Ferretti. Era un filosofo. Quello che dice... Lindo Ferretti comunque da qualche parte copiazzava. No. Lindo Ferretti, di cui conosco molto bene, diceva chi c'è, chi non c'è, chi è stato, chi è stato non è. Passato, tipo Napoli, insomma. No, a un certo punto, ti giuro che c'è una canzone, Mozilla Re, mi pare che ci sia questa cosa. Ora, io, insomma, abbiamo ascoltato tutte queste cose e mi veniva questa domanda, insomma, al sud tante volte, no, sentiamo dire, c'è difficoltà nel reperire le tecniche e magari per comprare qualcosa, per fare una casa, insomma, ci stanno invitando ancora una volta a utilizzare il fantastico cemento. Sbaglio o è così? Insomma, non c'è proprio questa attenzione e forse è voluta la cosa, questo è il chiedo. Assolutamente, sì, ancora si utilizza il cemento, quasi si tende a utilizzare il cemento dappertutto per fare tutto, anche i muri. Perché è facile comunque, cioè non ci vuole il grande esperto, perché basta che fai il cassero, no? la Gio era più strano in lingua, sì, perché c'è Facebook che la chiappa, no, una Facebookina, anzi. Cassero, come il cassero, la sì, la cassaforma delle donne ci mettono in cemento. Ecco, i pezzi. Però sto adesso. Niente, no, è molto facile fare il cazzo. Potrei farlo anche una cassaforma, la potrei fare anche io. Poi dopo di che arriva la betoniera. Ci butta il cemento, chissà dove. Non c'hai le cravatte in ferro per fare il cazzo dei plastici. Ci vogliono le cravatte in ferro, dicesi no. Cravatte, strumento in ferro, arte in varie misure e dimensioni con dei vari buchi per la dimensione dei plastici. Sono chiaro che se faccio tavolo, però. Vedi l'esperto, insomma. Sì, facile, sì. Infatti c'erano i nostri grandi artisti muratori, detti anche carpentieri. I muraturi, insomma. No, carpentieri, un'altra cosa. Carpentieri è una cosa, muratore è un'altra. Carpentieri è colui che lavora le tavole in legno, le inchioda, ovvero sia fra loro, come fanno i bambini quando giocano con i chiodi e i martelli e si spaccano le mani. E poi, niente, Katzenger. Questa casa mi sembra la casa di Katzenger. Che cazzo di bomba? No, nel senso, vabbè, quindi niente, quindi fare il cemento è molto, molto più facile rispetto a fare a inventarsi un cappotto, a un cappotto per me. Il cappotto della casa. L'avevo mezzo intuito. Oppure studiare ad esempio se al sud serve più massa, perché magari ci abbiamo anche tra virgolette il problema del caldo d'estate e del freddo d'inverno, e insomma ogni casa, o anche ad esempio dove è posizionata la casa, come è posizionata la casa, perché georeferenziare la casa correttamente al sud con le vetrate e quant'altro per avere il calore quei 4 raggi d'inverno per far risparmiare un sacco di energia. Invece farla col cemento la puoi alimentare come vuoi, che tanto viene frega niente a nessuno, a piccia caldaria e cammini e paghieni. E paghieni, che insomma puoi fare tante belle cosette in giro. Ora io dico che è il momento, magari qui c'è chi mangia mandarini, chi beve spumante, eccetera. Io dico che è il momento di ascoltare una bella canzoncina che vogliamo dedicarla a Orestaccio, perché è una canzoncina che questa volta pesca dalla tradizione dei primi del Novecento e ripropone in chiave, diciamo, un po' più rinnovata, ma non troppo. I tempi in annunzio, praticamente. Di tuo nonno, non lo so, il mio sì, effettivamente, che è abbona è morto, e abbiamo questo bellissimo questa bellissima canzone di Ginevra Di Marco, che appunto in tema di Lindo Ferretti, come sapete, era la seconda voce dei CSI, che canta questa volta Il crack delle banche. Io dico che più e ce l'aspetteremmo tanto, se proprio ci vuole. È una bella canzone, ascoltatela. Dopo che mi hanno dato il mutuo, io. Ok, va benissimo. Va bene. Grazie. Va bene, crack, insomma, dai, vediamo di fare questi crack finalmente. Si trovano sacchetti pieni d'oro. c'è qualche milioncino, ti senti nominar commendatore. Noi siamo tre celebri ladroni. Ok, siamo ritornati qui in studio, vabbè studio, all'officina. Continuiamo un po' con le domande al Ciccionoto su questa casa ecologica. Però prima di continuare prettamente sul tema della casa ecologica vorrei chiedere un'opinione, forse anche un po' nella provocazione. Perché ultimamente si è diffuso molto questa pratica anche di mettere questi rubinetti alternativi in casa che dovrebbero purificare l'acqua per renderla più potabile, meno dura. Secondo te? Ma secondo me sono una cazzata, nel senso che praticamente da quello che ho potuto capire e anche leggere in vari forum specializzati e quant'altro, in pratica quest'acqua, diciamo, la sterilizzano, per carità, dove ci sono situazioni di contaminazione di acqua, Reggio Calabria, sì, l'acqua salata, per carità, queste situazioni sono, cioè, vanno bene. È normale che è molto meglio questo tipo di apparecchiature che andare a acquistare tonnellate di bottiglie di acqua in bottiglia, che comunque questo poi ci porta e deriva ovviamente la produzione di rifiuti. Ma comunque la nostra acqua, però sia, cioè, il giro di 5 km, comunque abitualmente qualcuno di noi purtroppo si deve spostare per lavoro, ci sono delle fontane che vanno bene, insomma, cioè la cosiddetta acqua del sindaco, qualora non c'è un paese nella zona di Vibo anche dove sia fortemente clorata, ad esempio nella zona mia della Presila, oggigiorno è stato anche elevato il cloro dall'acqua ed è stata di nuovo ripristinata l'acqua totalmente dalla sorgente, perché per un periodo di tempo era stata anche utilizzata quella del fiumiciattolo. Ora si sta avendo comunque un periodo di nuova manutenzione che ancora più potrebbe essere migliorata se conosco i famosi referendum del potere veramente restituito anche da un punto di vista economico ed del gestionario, soprattutto riguarda alla gente, insomma. No, assolutamente. Siamo in una zona più ricca di acqua, siamo sotto la Sila, che è fatta di granito e quindi di acqua. Infatti per questo dicevo, appunto, cioè, dove serve va bene, però usarla dappertutto mi sembra un po' una cavolata. Noi a breve, sì, insomma, sicuramente nell'inizio dell'anno 2012 faremo con il coordinamento Acqua Bruno Arcuri, il coordinamento regionale Bruno Arcuri, faremo un'analisi delle acque dentro Cosenza. Abbiamo acquistato dei kit che sono anche abbastanza semplici da utilizzare, che possono essere, li utilizzeremo come sentinelle, ecco. Vedremo l'acqua che dentro Cosenza va bene, ovviamente prelevandole dalle varie fontane, delle varie condutture, cioè Abate Marco, Zumbo e quant'altro. Ovviamente non andremo facendo la stessa cosa e vedremo per andare a vedere appunto l'acqua se è buona o meno, e quindi fare questo lavoro, poi lo credo di pubblicarlo, se è il caso chiedere, se ci sono problemi, di chiedere approfondimenti, non so, immagino ASL, ASL, sicuramente potete richiamare l'attenzione delle istituzioni. No, te lo chiedevo anche perché mi sembra un paio di anni fa la rivista Altro Consumo fece uno studio del genere, però su persone dislocate in tutta Italia che già avevano l'apparecchio informatico, servizio, l'acqua, e molto spesso il risultato addirittura che peggiorava le condizioni dell'acqua, perché toglieva un sacco di sali minerali e in più le rendeva troppo dolce, per cui l'organismo commette sentimenti. Appunto, questa mia cosa, diciamo, sterilizzare l'acqua. Io hai nominato questa rivista qua, diciamo, non che diffido, ma vabbè, no, nel senso che vabbè, giusto per fare una, però nel senso che la rivista Altro Consumo non è nient'altro che comunque un invito, sì, sicuramente a consumare prodotti, il prodotto migliore, ma non invita a ridurre i consumi, non invita a, insomma, ad avere uno stile di vita più rispettoso dell'ambiente. Questo non lo fa, è semplicemente una rivista per consumatori. Cioè io ho conosciuto anche persone, appunto, abbonate e quant'altro, che erano convinti di essere abbonati a una cosa positiva, dopo che abbiamo parlato un paio di volte, non hanno rinnovato l'abbonamento, adesso no. No, perché nel senso, comunque discutere fa sempre bene. Va bene, intanto mentre il nostro Orestaccio continua a scrivere, non sappiamo che cosa ti offende, insomma. Penso che stia acchiaffando qualcuno, insomma, diciamolo. Sì, più che politica mi parlano femmine. Sì, è un fatto di femmine, lo sappiamo. No, vale femmine, solo sto diventando misogino, solo attività. Voglio dire davanti a noi. No. No, voglio dire, comunque c'è altro. C'è altro, va bene. C'è altro. Allora. Secondo, comunque. Ci sono pure i mascoli, insomma. Normale attività sovversiva. Apri altri orizzonti innanzi a te. Lo sicuro. Ricordatevi che la libertà è di chi la pensa diversamente e chi si ha più opportunità nella vita. La libertà non è sopra un albero, infatti non a caso di ciò non si fa una casa sull'albero, ma se la fa con l'albero, con la casa in legno. Questi pilastri in legno bellissimi che si stagliano nel cielo di rovito. Ecco, un panorama veramente altro. Non disturbare in questo momento il cielo perché sta attizzando il fuoco, perché sennò qui ci scattiamo di freddo. Scattare significa morire schiattati di freddo. Ora io direi di ascoltare anche qualche altra. Il fuoco è finito di attizzare, sì. Allora, io direi di porre un'altra domandina prima di ascoltare un po' di musichetta, insomma, che ci piace sempre. Ecco, il fuoco non vuole prendere, magari ci vorrebbe un po' di alcol, non lo so. Sbambamo tutto, che è una cosa che a me è sempre piaciuta, sbamba tutto. A ogni modo, insomma, noi ci chiedevamo con Guglielmina, prima di iniziare la trasmissione, qual è stato l'impatto che invece ha avuto questa decisione sul tuo gruppo di persone vicine a te, la tua famiglia, so anche di alcuni fatti, di alcuni bambini che ti hanno addirittura sgridato perché non devi buttare le cose a terra, quindi insomma c'è questo tuo gesto, anzi questo vostro gesto, perché mica poi è solo Ciccio che sta costruendo la casa, No, certo, siamo in tre adesso. Insomma, forse saremo quattro, qua chissà. Non lo so. Addirittura. Forse. Non so. Vabbè, sì, prima o poi potrebbe. Ah no, pensavo fosse proprio una potrebbe cosa. Potrebbe. No, potrebbe. Potrebbe. Quindi l'impatto c'è sulla mia rete di relazioni. Di radio, niente. Niente, vabbè. L'impatto sulla mia rete relazionale, diciamo così, è stata della più varia. Diciamo così, i parenti, quelli più prossimi, diciamo, i genitori, non erano proprio chissà quanto contenti che ci avventuravamo nella costruzione di una casa, come anche tante altre persone. Però ovviamente quando questa cosa viene dai genitori è un po' brutta, però poi devo dire che dopo che la casa ha cominciato a spiccare, cioè il volo, c'è il sostegno completo, diciamo così. Quindi niente, superata quella prima fase di diffidenza, è passata. Ovviamente sì, quella su cui devo ringraziare più di tutti, dobbiamo ringraziare più di tutti, è stata la grande nonna, diciamo così, che comunque ha donato il terreno su cui poter costruire la casa, e non solo, non sei, diciamo, non è solo il mero e semplice terreno, ma anche che è bello e coltivato da 30 anni, quindi c'è un bel po' di roba che ci permette. Quindi è un orto praticamente, sì, che sì, diciamo, anche se negli ultimi anni... Casa ecologica con pure orto annesso. Con orto annesso, sì, anche se ultimamente negli ultimi anni lei non lo ha confiato per questioni di età, però adesso io lo sto riprendendo pian pianino, però ovviamente fin quando non saremo sul posto. Insomma, minaccia a poco di tutto. Sì. Questo è il futuro. Assolutamente. Il ritorno alla terra. Non dico l'autosufficienza, però dipendere sempre meno da supermercati, da multinazionali, penso che possa far bene. Mi sono venuti i primi calli, vabbè, no, della zappa, wow. Di qualche altro attrezzo che sto utilizzando. E quindi... Ma dice da chi ne viene la zappa, poi sessualmente a letto c'è una spina della spinta dorsale molto più, è vero questa cosa? La spina dorsale è un gioco di parole con la spina dorsale. La mia spina dorsale mi è stata sentendo come sulla questione di trasportatronchi, mina e zappa, e poi non lo so, il letto sì, è a casa. Dobbiamo chiudere la porta, dovremmo investigare da altre parti, va bene, ok. Va bene, queste cose non si dicono per radio, dai. Ma queste sono le solite cose, le orestiali, insomma, perché noi affondiamo le nostre radici nella cultura greca, ecco, le orestiali, insomma. Potremmo fare una puntata solo sulla vita sessuale, su come si vive la vita sessuale in contrapposizione agli impegni quotidiani e alle fatiche quotidiane, quindi... E alla sopraffazione del capitale che ci impone uno stress continuo, sì, possiamo fare la vita sessuale, secondo me è quella più distrutta, sì, da comunque da tutte le cose che dipendono dal fatto di non avere lavoro, la precarietà, la cosa, arrivi stressatissimo, che poi è la prima cosa che ne sento. Onestaccio dice che fai cilecca, insomma, la realtà è questa, dobbiamo ritornare alla terra. Ecco, perché in questo modo, no, riusciremo a sopperire a tutte queste mancanze che ci impone il capitale, con questi bisogni anche indotti. Ecco, e visto che stiamo un po' sconcludendo, io direi di fare una piccola pausa e di ascoltarci. Voi che consigliate, insomma, quali musiche consigliate? Nessuno ha... No, la faccia non ce lo chiederemo perché lo sappiamo che chiede il galeone, quindi no. Meno male che è distratto, quindi io dico che ci sentiamo questa volta. È una bella cosa, magari un po' punk, visto che ecco, ci ascoltiamo in negazione, magari. Che non è, tutti sono in negazione. Ci ascoltiamo in negazione e ritorniamo fra poco, sempre dalle officine a Babilonia, sempre su Transizione di Fase, sempre la trasmissione Figli di, che in questa puntata è la numero 00, non sappiamo più o meno, comunque ci siamo, ascoltiamo. È l'idea di programmazione di... Benissimo, ascoltiamo in negazione. is a sad and beautiful world. Ritornati, Orestaccio continua a essere lì a disturbare, qua, a ciotiare. Vabbè, ciotiare in, per chi non è cosentino significa dire cose pazze, un po' strane. Pazziare. Pazziare. Ma anche originale. Ah sì, quello non ci sono tutti, guarda. Allora, parlavamo anche di questo fatto della famiglia, che molte volte innanzi alle qualcuno fa occhi palle, vabbè, però. E ci sono anche persone che comunque sono interessate, insomma, alla costruzione di queste. La famiglia è la cellula cancerogena della società. La famiglia è la cellula cancerogena della società. La famiglia è la cellula. Vabbè, sempre gli anarchici. Per esempio, e invece no, mia madre, per esempio, sogna di costruire una casa di legno, te l'ho detta, mo, e mi fa la testa tanto, dice, abbiamo sta cazzi casa a due piani. Ma che ha generato sicuramente un altro essere. È una compagna. È una compagna, insomma. E sogna sempre, insomma, sto caspita di fatto della casa di legno, tanto è vero che poi abbiamo costruito una piccola veranda solo di legno e la cosa ci è piaciuta veramente tanto, sì. Solo che vicino a noi abbiamo l'Eternit, che ancora non riusciamo a smaltire. E vabbè, sono le contraddizioni. Ma non cazzo, infatti non riusciamo a trovare, vabbè. Però, che consigli possiamo dare alle persone che, come mia madre, vorrebbero costruire... È vero, sto fatto, vorrebbero costruire una casa, diciamo, eco-biocompatibile, diciamo, così, va. Allora, posso fare tra virgolette un esempio di persone che tra virgolette sto seguendo all'interno del gas. È già diventato maestro. Tutor ciccionoto. No, praticamente all'interno del gruppo d'acquisto ovviamente su internet ho fatto un po' circolare questa idea, ho fatto anche una presentazione pubblica a luglio del progetto. E quindi si sono cominciate ad avvicinare alcune persone. E in questo momento sono tre le persone che sto consigliando al momento. Una tra virgolette si è persa per strada, inteso che poi alla fine non ha valutato di acquistare un appartamento nel centro storico di Cosenza, quindi comunque rispettabilissimo, quindi di ristrutturare. Ovviamente ristrutturerà in maniera ecocompatibile. Sì, ovviamente utilizzando tutta una serie di accorgimenti che qua possono rendere la casa sicuramente migliore delle strutturazioni che vengono fatte soprattutto a Cosenza con questi architetti che abbiamo, lo dobbiamo dire. Invece altre due coppie, una è un po' una fase un po' più avanzata, nel senso che stanno te lo vieto, avevano messo già le antenne. No. Stanno praticamente acquistando il terreno. Stanno acquistando il terreno, quindi questa coppia qua sta acquistando il terreno, invece un'altra ha già presentato un progetto, solo che c'ha dei vincoli ambientali, nel senso che c'è no al consumo del suolo, consumo del suolo. Sì, ovviamente anche questo. C'è un problema, nel senso che sulla carta c'è un vincolo ambientale, però materialmente questo vincolo ambientale, ossia il posto, non c'è più, perché solo sono. Qualcuno se l'è già mangiato, provveduto a farlo scomparire. Però materialmente che zona è? Sulla carta c'è un vincolo ambientale, quindi... Però ecco, appunto, sto seguendo questi amici. sicuramente la mia prima la prima cosa che dico a tutti quanti è quella di leggere. Io negli anni ho passato alcuni libri che sono, diciamo, sono le bibbie della fiorentina. Quindi cominciare a leggere. Internet in un primo momento può anche fuorviare, perché c'è di tutto, e c'è molto spesso tanta roba replicata e anche replicata male. Quindi poi, ecco, negli anni hai seguito corsi, laboratori, per esempio all'estero? No, all'estero si fanno un sacco autocostruzione e cose varie. Sì, io no, laboratori, devo essere sincero, anche per una questione economica, anche se la cosa, l'idea è forte, non ne ho seguito. Devo dire che la costruzione, cioè non è solo autocostruzione, ma comunque c'è una ditta, c'è una cooperativa che sta lavorando, insomma, è l'unica ditta che sono riuscito ad avere un secondo incontro, perché tante altre, cioè già i primi 5 minuti si capivano praticamente il cazzo. Invece, appunto, ecco, questa cooperativa di rende la cooperativa Aquita, fare un po' di pubblicità, ecco, con loro siamo riusciti poi materialmente, stiamo proseguendo nella costruzione. Ci sto anch'io, nel senso che quindi è parzialmente in costruzione, e vedremo con i prossimi passi di allargare questa autocostruzione eventualmente anche ad altre persone che vogliono cimentarsi, anche solo l'idea di stare su un cantiere, insomma, un po' vedere come si fa, assolutamente, no? Assolutamente sì. Va bene, insomma, l'idea di costruirsi una propria dimora con le proprie mani, o comunque spendersi realmente per costruire il luogo dove si abita, alla fine è veramente forse una sorta di ritorno alle origini che poi fino a poco tempo fa erano ben presenti anche sul nostro territorio. Magari i nostri, per fare dispetto a Orestaccio, i nostri genitori magari avranno per esempio costruito le loro case, tipo, e magari l'hanno fatta pure un po' a cazzo così, insomma, c'è cemento, no? Però all'epoca. Però voglio dire, vedo che Orestaccio vuole dire qualcosa. Vuole giochiare una cosa. No, è un intervento da geometra. Ah, da geometra, sì, insomma, un geometra dell'area. Se pensiamo che le nostre case, per esempio dei paesi nei della presida, comunque avevano mura di un metro, ovvero sia alto isolamento per quanto riguarda il caldo dell'estate, per cui nelle case di una volta sicuramente non avevano bisogno di un termoconvettore che succhia energia. E il più produce un caldo, per produrre un grado di caldo, un grado di freddo in casa ne produce 3 gradi fuori, quindi quei muri là erano sicuramente, erano però congrui ad ottenere il loro effetto. D'inverno quelle stesse case, se non avevano grandi spifferi, come purtroppo magari veniva per il legname che se ne andava per i fatti suoi, però se non c'era questo problema, quelle case con un minimo di riscaldamento avevano delle proporzioni per metro cubo, delle proporzioni in tale che erano ben riscaldate, anche bastava una braciera. Insomma, ok. Ma ora una domanda che è in tema, la voglio fare al geometra. Sono quelli che il cemento armato ha creato il problema. Una domanda però al geometra. Ma secondo te, visto che siamo soggetti a queste scosse di terremoto, eccetera, ma secondo te si vera una scossa di terremoto, un sciolla tutti tipo Cosenza, no? Secondo il geometra Orestaccio, si vera un terremoto, si sciolla? Perché noi siamo interessati a questa tematica fondamentale, cioè la sciollatina di Cosenza. Allora, si può sciollare Cosenza? Diciamo che su cazzi, cioè, siamo su sacco. Ma tipo il comune, no? Quella brutta struttura si sciolla secondo te? Ah, beh, se avete su questo punto di vista, essendo costruita negli anni 50 e 60, prima della norma antisismica, contando su ditte poco serie o quant'altro, può essere che non ci rimane niente. Si può sciollare, insomma. Si quindi avremo finalmente la visione, la cosa. Ma è più facile che si sciogge prima un comune o prima le case? secondo me sono messi molto male. Cioè, siamo, si viene una cosa seria, sei le ultimissime invece costruiti con pali profonde, che poi questi pali profondi sono attaccati ad una zattera, ovvero sia una base di cemento e fondazione, e su questo poi si alza tutto quanto. Però, con ottimo cemento armato dovrebbero oscillare, ma non cadere. Ma comunque non vorrei ricordare una cosa, che le ultimissime, però anche Viale Parco è stato fatto ultimissimamente, sì, e pure c'era la spazzatura sotto e si è rotto senza sì, ma quello è un altro discorso, cioè non il discorso però voglio abolire questa discussione, sì, perché sì, non ci dobbiamo preoccupare, tanto verrà la protezione civile a ricostruire. Bertolaso non c'è più. Sì, ma tanto Bertolaso non c'è bene, più. Il meccanismo rimane sempre uguale, oggi, dai. La crisi, non ci sono più i massaggi, la protezione civile senza i massaggi, Bertolaso lo ricordiamo, davanti grazie ai massaggi, senza i massaggi la protezione civile non è più quella di una volta. Queste sono le fonti anarchiche che sì, ci dicono questo. Sì, ma queste fonti anarchiche dicono che sono... di questa cosa. No, ma le fonti anarchiche sono massaggi. Massaggi. Non seguite la cronaca. No, la cronaca rosa me la risparmio. Cronaca delinquere. Ma sempre rosa è, mi piace questo colore. No, noi siamo per il nero. È delinquere. Non siamo milanisti, però. No, siamo per il rosso, non per il rosso. E beh, vedo che c'è una persona che sta alzando la mano, dice io. Sì. No, volevo semplicemente dire, non so se le domande sono finite, però volevo fare una piccolissima riflessione. Sento che aver costruito questa cioè, stiamo per costruire questa casa qua, quindi stiamo per trasferirci, quindi anche cambiare residenza. Non vivere più in una città grigia, esatto, in un appartamento al primo piano che dalla parte da una parte abbiamo le cancellate, quindi quasi in carcere, e quindi spostarci in campagna. Voglio andare a vivere in campagna, c'era questa canzone di Toto Cutugno. Mi fa sentire un po', mi sento di essere un privilegiato, però vorrei anche un po' sfatare questa cosa qua, nel senso che alla fine penso che il sistema ci fa sentire come se andare verso la natura, quindi ritornare alle origini, insomma ritornare verso la natura, fa sentire le persone privilegiate, cioè le persone che lo possono fare sono privilegiate. Questo dovrebbe essere invece un diritto di tutti quanti, quello di non vivere, di scegliere, di poter scegliere, quindi di non vivere in grigi palazzi, in dei loculi, possiamo dirlo. Loculi, sì, assolutamente. Sì. Quindi anche l'edilizia popolare dovrebbe cambiare, dovrebbe essere, ma cambiare realmente, quindi non fare come stanno facendo negli ultimi 10 anni, solo gioco di l'esperimentazione, ma dovrebbe essere lo standard quello di costruire in maniera più ecocompatibile, sostenibile. Basta con questi, con le case oltre i 5 piani, siamo nel Mediterraneo ha le costruzioni basse, quello dovrebbe essere il case in pietra, utilizzare sicuramente i materiali del luogo, ecco questo, e quindi capite bene, insomma un po' sto male su questa questione qua, perché mi sento di essere un privilegiato, però vabbè, però sei anche una persona che appunto tu stesso hai detto che questa idea c'era in mente da 10 anni, finalmente la stai concretizzando, cioè comunque è stata una costanza della tua vita su cui hai lavorato, stai lavorando e sicuramente lavorerai. Per però il resto su questa questione qua del lavoro vorrei dire che sono felicemente disoccupato no, nel senso che abbiamo fatto anche una scelta di vita, nel senso che abbiamo pensato che uno stipendio infatti ci andava più che bene, l'altro, quindi io faccio un po', faccio il mambo, faccio il casalingo, faccio la casa, faccio un po' di cose, nel senso fermo non ci sto. Ma se uno ti chiama per le pulizie e ti paghiamo, vieni? No, assolutamente no. Io sì. Ho detto no. Io sì, sono pure bravo di tutto, guarda, tranquillamente. No, vediamo. Vabbè, però è anche un'altra concezione del lavoro, no? Cioè la casa ecocompatibile non è solo in quanto casa ecocompatibile, ma poi rispecchia tutto un'altra visione di un'altra vita possibile, no? Si tira dietro tante cose. E appunto sono 2 anni da quando ho iniziato materialmente la costruzione della casa, che comunque tante cose sono cambiate, appunto ho lasciato il lavoro e questo. Va bene, noi speriamo che il tuo esempio vivo, concreto è reale, poi questa sorta di vita, no, di con le bollicine che ci porti come le bollicine di qualche spanda che ci sta un po' ubriacando, sì, questo, diciamo. Quest'aria frizzante che può contarci ad esempio a tutti noi e anche a chi ancora non si è avvicinato a questi aspetti, a queste tematiche. Niente, ti auguriamo un buon lavoro fondamentalmente. Che lavoro, tanti cambiare, ma noi speriamo insomma di poter venire a festeggiare, magari a riprendere in diretta la giornata in cui la casa verrà inaugurata, insomma, perché c'è stata già una presentazione della casa la scorsa estate, magari transizione di fase con tutta la sua troupe, ma non solo quella di Cosenza, di Reggio, di Londra, di Roma, veniamo tutti alla casa. Vabbè, te la invadiamo praticamente. Facciamo un'occupazione pacifica. Il piano di sopra, questo, il piano di sopra che ovviamente, vabbè, non che questa casa sia grandissima, ma il piano di sopra praticamente non ci faremo niente, cioè rimarrà così vuoto. Quindi transizione può venire. È del piccolo Fargo, perché saprà cosa fare. E del piccolo Fargo. Bene, io direi che questa serata abbastanza fredda e piovosa in questo luogo molto salubre che sono le officine Babilonia, che c'è sempre qualcuno che lo ricordiamo che è sempre lì dietro che ci guarda, ci spia e dice: ah, questo spazio non va bene, lo dobbiamo abbattere, lo dobbiamo distruggere, dobbiamo creare altre cose, altre chiese, altre case, Intanto noi siamo sempre qui alla faccia di chi ci vuole male. Saluto al nostro caro sindaco, che è architetto, che ha detto che le officine sono da abbattere perché per la questione sismica non vanno bene. Esatto. In realtà queste sono costruite in ferro, per cui sono altamente proprio più resistenti di questa cosenza, cioè su strade ipe in ferro, per cui non è possibile queste. Ed è qui che ti volevo, perché se viene il terremoto, il comune crolla, tutto crolla, le officine no. Rimangono. E rimarrà anche figli di a cui potrete mandare le donazioni per il terremoto. Noi siamo contro i soldi, perché siamo per un sistema diverso. Per il vino invece no, il vino ci no, perché il vino lo andremo a fare noi stessi coltivando la vigna. Sì, ma nel frattempo se ci umano sempre bio. No, ma c'è Arritillano, hanno pochi vino. No, mo c'è sta porcheria castici in sano. Ma non so se vogliamo invitare chi è nelle vicinanze a venire il 21 al prossimo laboratorio di Cosenza. Ecco che Guglielmina, io sapevo che Guglielmina, se riusciremo a mandare in onda questo programma, però questa volta ce la possiamo fare, se mi impegno che possiamo farcela, quindi vi ricordo che il 21 dicembre qui alle officine a Babilonia dalle ore 7 ci sarà questo laboratorio di scrittura creativa dedicato al colore rosso di Cosenza e addirittura transizione di fase sarà qui a seguire in diretta la trasmissione e permetterà dunque anche a chi è lontano di partecipare virtualmente e di interagire con il laboratorio stesso. Intanto cerchiamo di attizzare il fuoco, la legna è finita e ci rimangono in realtà dei cartoni, lo diciamo. Quindi soprattutto se venite il 21 o comunque se passate dalle officine che siete di Cosenza, portate legna. L'invito va a Lorestaccio che vuole caricare la macchina con legna, l'ha detto insomma. L'invito è rivolto a tutti. Portate legna di qualsiasi tipo, va bene, tanto è una stufa chiusa, di chi sa. Si è fatta una certa ora, vero Guglielmi? Sì, siamo rimasti anche senza legna, direi che è vitale andarsene. È vitale andarsene, voglia a timbriaca, comunque niente, ce ne dobbiamo andare perché fa veramente freddo. Orestaccio non proferisce parola. Ed è quanto dire. È rimasto senza parole, quindi non possiamo più fare altro. Bene, io direi che per questa puntata numero 0 più o meno potremmo... Quella di prima era doppio zero. Mi piace. Era doppio zero. Ora io direi che è il momento. Doppio zero come Dick Dastardly. No, come la farina. No, era Dick Dastardly. Era un cartone animato dove c'era. Vabbò, degli anni 70, della tua anni 80. Negli anni 70 i cartonati non c'erano. Che dici? Come no? Mazinga Z secondo Mattia quando hanno fatto, scusa? Era nel 1980, quando io no, no, no, è un cartone animato fatto negli anni 70. Sì, però da noi è arrivato negli anni 80. Ah, vabbè. No, vabbè. C'era. Fare riferimento alla tua esperienza temporale. No, quando è sempre a quella vissuta, non quella mediata. Non quella se devo mediata. Fare riferimento alla mia esperienza temporale, allora i cartoni animati sono partiti dalla fine degli anni 80. Ecco, vedi. Ecco, vedi. Appunto, tutto è relativo, basta avere dei punti di riferimento assoluti. Relativista! Vabbè. Strutturalista. Ah, relativista. Strutturalista. Vabbè. Bene, io direi che è giunta l'ora di chiudere i microfoni. No, no, sembra che presenti le canzoni tue che sono abolite. Niente. No, aboliamo le canzoni di Orestaccio perché sennò gli indici di ascolto di questa trasmissione saranno sotto zero. Dunque, vi salutiamo dalle officine Babilonia. Avete ascoltato Figli di, una trasmissione curata da una serie di persone interessate a questo programma che si ritrovano qui di lunedì e probabilmente prima o poi andremo anche in onda in diretta, non sappiamo. E il nostro orario più o meno lasciateci praticare, dice giustamente Guglielmina, il nostro orario dovrebbe essere di lunedì alle ore 17 o 18, ora vediamo. Vi diamo appuntamento alla prossima volta che sicuramente ci sarà. Guglielmina, è ok che sarà? Sì. Questo è un impegno, benissimo. Anche il computer fa strani gesti. È il momento di chiudere. Arrivederci a tutti. Dai. Ciao. Thank you.